la neve cadeva sottile su un pomeriggio vuoto e malato. La neve cadeva sottile su un pomeriggio vuoto e malato. Sulle mie rabbie di parole, sulle mie guerre di pensieri, la luce sembrava morire dentro ai miei pugni di sognatore. La luce voleva morire dentro ai miei pugni di sognatore. Cercai d'andarmene di là, cercai d'andarmene di là, di arrivare in una terra con campi zeppi di viole, di sdraiarmi in una terra con cieli immensi di sole, dove gli stomaci sono pieni, dove i ricordi sono sereni. Andai, la neve cadeva, avevo un groppo in gola. Andai, la neve cadeva, avevo il cuore in gola. Una imponente necessità, un'assoluta inutilità. Nostalgia di un fiore, che cosa terribile. Nostalgia di un fiore, che cosa terribile. Per trattenermi dal pianto, apro la bocca e rido. Per trattenermi dal pianto, apro la bocca e rido.